America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Mi sembrava giusto partire con il silenzio, l'omaggio ai caduti. I caduti in questo caso sono i caduti dell'11 settembre. Perché? Perché questa mattina si inaugura qui a New York, a Manhattan, nel luogo dove le due torri sono state distrutte, il museo dedicato all'11 settembre. Il presidente Barack Obama è già in città, la città tra l'altro è in uno stato di assedio, devo dire veramente in uno stato di assedio. Qui attorno al nostro ufficio ci sono transenne, macchine della polizia, poliziotti sparsi in giro, misure di sicurezza straordinarie naturalmente, perché l'occasione di disturbare questo momento importante sul piano emotivo, sul piano dell'unità nazionale per gli Stati Uniti, vi dicevo, l'occasione di disturbarlo è ghiotta, e dunque è un momento in cui gli americani si raccoglieranno attorno al ricordo di questa giornata che molti di noi hanno vissuto. Io l'ho vissuta in diretta allora, l'ho vissuta sotto le due torri, e in questo museo che ho potuto visitare parzialmente perché non era ancora aperto tutto, ci sono orologi fermi da quasi 13 anni, uniformi bruciate, uniformi dei poliziotti, dei pompieri, ci sono i resti degli aerei usati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire le due torri gemelle, tutti gli altri oggetti recuperati tra le macerie di Ground Zero sono custodite all'interno di questo museo. E dunque, ecco, mi sembrava giusto in questa giornata partire con un omaggio all'America che continua a cercare di esorcizzare questa giornata ormai lontana, perché sono passati 13 anni, ma pur sempre vicinissima soprattutto per i figli di coloro che sono morti, per i mariti o le mogli di coloro che sono morti. Ecco, però oggi vorrei parlarvi delle donne nell'editoria, perché ieri mattina abbiamo avuto un paio di notizie. La prima è arrivata da Parigi, nella primissima mattinata qui a New York, la notizia del licenziamento di Nathalie Nougaried, che è il direttore di Le Monde. Adesso Le Monde è un giornale francese, ma è molto amato, molto seguito in America, e ha lasciato così colpiti, devo dire, su molti siti, gli ambienti dell'editoria erano rimasti abbastanza colpiti. Ma era nulla rispetto al terremoto che si stava preparando. Perché? Perché qualche ora dopo è arrivata la notizia del licenziamento in tronco di Jill Abramson, il direttore del New York Times. È stata la prima donna a diventare il direttore del New York Times. E domani ci sarà un'altra giornata storica. Perché? Perché Barbara Walters chiuderà la sua stagione televisiva, darà l'addio a questo grande programma del mattino che si chiama The View alla tenera età di 84 anni. Ma sentiamo Jill Abramson. Tablets and iPhones, in fact, have given long-form narrative journalism a way to reach a new audience. Ecco, qui dice: i tablet e smartphone hanno dato al giornalismo un nuovo canale per raggiungere un pubblico ancora più grande. La popolarità di questi strumenti ci dimostra come l'articolo di approfondimento non solo è ancora vivo, ma sta di fatto danzando una nuova musica. Ecco, Jill Abramson ha fatto un po' da collante, ha fatto un po' da cerniera tra il vecchio e il nuovo giornalismo. Cosa è successo? Beh, è successo che ieri mattina Arthur Sulzberger si è presentato nella newsroom del quotidiano e ha lasciato di stucco i giornalisti. Ha dato l'annuncio che il giorno prima, e cioè martedì, la Abramson aveva lasciato il giornale. Non andava d'accordo, c'erano state già indiscrezioni qualche tempo fa, non andava d'accordo con il suo numero due, Dean Bakwe, un giornalista afroamericano, 57 anni, ebbene, proprio lui che è stato nominato come nuovo direttore. Lei, Jill Abramson, è stata la prima donna a dirigere il New York Times, lui sarà il primo afroamericano a dirigere il quotidiano, per cui comunque sia, ieri il New York Times è riuscito di nuovo a fare storia. What will you tell your children when you have them? Mommy made a big mistake. Barbara Walters, beh, vi dicevo, anche lei lascia, la storia è diversa rispetto a quella di Jill Abramson, ma così gli americani si erano affezionati a questa donna di 84 anni, ancora molto giovanile, molto attiva, molto aggressiva, ancora capace anche lei di fare notizia. Lascerà The View, ma cosa dice per esempio la Walters alla Levinsky in un programma che è stato anche lui storico, perché pensate, ha avuto 50 milioni di spettatori e ancora un record assoluto per un news program. Le dice, ma cosa dirai, Monica, cosa dirai ai tuoi figli raccontandogli di quel che è successo col presidente Clinton? Gli dirò, beh, la vostra mamma ha fatto un grosso errore. E la Walters chiude, mi sembra che sia l'understatement dell'anno, cioè l'eufemismo dell'anno. E con quella frase, e con quella singola frase, ha definito un momento. Poi anche intervistato Fidel Castro, sentiamo. Yes, Barbara, it's very difficult to persuade you. Dobbiamo infrascarne. Ok. Barbara, ma che lo dobbiamo ripetere che gli ha di. Ecco, qui Barbara Walters provoca Fidel Castro, il quale era affezionato, perché in fondo erano, come dire, coetanei, lo provoca sulla Baia dei Porci, cerca di fare una ricostruzione, e poi nel 2002 lo intervista di nuovo e gli chiede anche la seconda volta, ma insomma, questa libertà di stampa la vogliamo introdurre a Cuba o no? E Fidel risponde, Barbara, ma perché dobbiamo sempre tornare sulle stesse cose? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo avuto una notizia purtroppo molto, molto triste, perché si è suicidato Malik Bendjelloul, che è un regista svedese, ma è soprattutto il regista di Searching for Sugar Man, un documentario su questo straordinario cantante di Detroit, Sixto Rodriguez, che era sparito dalla circolazione, se non per essere invece trattato come un idolo in Sudafrica. La notizia tristissima, vi dicevo, è il suicidio di questo giovane regista che aveva 36 anni, e dunque mi sembra giusto dedicare comunque a lui la canzone di Sixto Rodriguez, Sugar Man. Sugar Man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.